piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Hanno trasformato una stanza della loro casa in una serra per la coltivazione della marijuana, con tanto di motore elettrico, interni termici, filtro per l'aria, ventola di aspirazione e lampada fluorescente. L'hanno scoperto i carabinieri di Torino, che hanno arrestato due giovani fidanzati. Cosa spinge giovani apparentemente bravi ragazzi che studiano e lavorano a ideare, o meglio ad ingegnare, visto che due sono studenti di ingegneria all'Unical, un meccanismo tale per la produzione di droga? I tre 22enni risiedevano in un appartamento a Renda, all'interno del quale, in un armadio di una delle camere da letto, avevano ideato e costruito una serra per la coltivazione della droga. Tutto era stato perfettamente congegnato. Avevano rivestito le pareti dell'armadio con dei fogli in laminato d'alluminio, un faro alogeno collegato ad un timer elettrico e due elettroventole per regolarizzare e mantenere costante la temperatura interna del microclima. Inoltre, all'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti dei bilancini di precisione, 20 confezioni con 370 grammi di marijuana pronte per la vendita e un libro edito da Produzioni Shambu dal titolo Il canapaio, canapicoltura indoor. Dai primi accertamenti è da escludere un legame dei tre ragazzi con la criminalità organizzata, ma resta comunque un interrogativo. Faccio una doverosa premessa, anche perché non voglio che questa trasmissione mi procuri problemi di tipo legale. Io non fumo nemmeno le sigarette. Ho fumato il sigaro per darmi un atteggiamento in una fase molto infantile, provinciale della mia vita. Fumavo il toscano, ma mi faceva schifo, in realtà non mi è mai piaciuto. Non ho mai più fumato e quindi sono totalmente disinteressato ad ogni tipo di fumo. Però ho curiosità di vedere come si è potuto evolvere un fenomeno. Io qualche anno fa feci una trasmissione proprio sulla coltivazione casalinga della cannabis e venne fuori che un numero importante di ascoltatori coltivava queste piantine che in gergo chiamavamo piantine di basilico. Lanciai questa domanda: quanti piantano il basilico nel terrazzo? Quante piantine di basilico vi coltivate per la vostra insalata? E loro rispondevano, hanno risposto in maniera massiccia e ho visto di avere un pubblico di coltivatori di basilico. Leggo sulla stampa di Torino di un paio di giorni fa che è stata scoperta una piantagione clandestina di marijuana proprio vicino a Torino. Erano 527 piantine, avevano messo su una bella serra, hanno sequestrato quasi un chilo e mezzo di marijuana. Le persone che facevano questa coltivazione sono state arrestate, perché da noi le leggi sono molto severe, si rischia fino a 6 anni di detenzione per la coltivazione clandestina di sostanze oppiacee, cannabis, marijuana e via dicendo. Quindi naturalmente chi coltiva marijuana compie un reato a tutti gli effetti. Però in questo momento di distanziamento sociale, e vorrei capire, questo mi interessa molto, le persone che abitualmente facevano uso di fumo, come fanno? Avranno qualcuno probabilmente, visto che è vietato, è un'operazione criminale coltivarla, che li riforniva di quello che loro abbisognava. Mi sembra un po' singolare che in questi giorni, che è difficile anche per un idraulico andare casa per casa a fare le riparazioni, un pusher, fermiamoci al fumo, un pusher possa tranquillamente girare, andare casa per casa e rifornire professionisti, avvocati, medici, commercialisti, giornalisti, le persone che normalmente ne fanno uso, normalmente si avvalevano dei suoi servizi. Mi viene da pensare che a questo punto si sia incrementato il bricolage casalingo. E mi interessa come fenomeno sociale, sono totalmente disinteressato a fare propaganda o sostenere nessun tipo di movimento pro o contro, a favore, per l'incentivazione, per il proibizionismo, sono un osservatore. E avendo fatto anche una trasmissione giorni fa, ho visto che gli italiani si improvvisano idraulici, maniscalchi, falegnami, pulitori di casa, bricolese, via dicendo, vorrei capire se si sono anche aumentata la perizia e la maniera, il desiderio di coltivarsi a casa il cosiddetto basilico. Ho avuto una volta una piantina Ne ho coltivate per un pochino, ma non ho neanche fatto in tempo ad affezionarmi, sì, però in realtà non ho neanche fatto in tempo a vederle crescere e produrre quanto interessava di più, perché mia mamma una volta venne a casa mia, a mia insaputa, e ci buttò dentro la canteggina. Diciamo che ho una compagnia, ok, facciamo tutto da noi. Si parla di una serra interna, luci, trattamento dell'aria. Questa era la situazione di qualche anno fa, in cui i miei ascoltatori improvvisamente raccontarono le loro avventure e disavventure domestiche, in cui magari le madri, le mogli, le persone di casa non sufficientemente informate, vedono queste piantine, le usavano al posto del basilico, appunto, o di altre erbe aromatiche, non sapendolo, o la madre ci buttava la candeggina perché pensava che il figlio fosse un pericoloso drogato. Devo dire che in questi giorni c'è un vasto movimento di pensiero, anzi una campagna di disobbedienza civile, che è uno strumento comunque di protesta, di esternazione di un proprio desiderio di cambiare alcune leggi, che in qualche maniera incentiva, chiede di piantare almeno un seme di marijuana per fare sì che si muova comunque l'apparato che produce leggi, vedendo incontro le persone che reputano giusto, lecito e non dannoso coltivare marijuana a casa propria. Ma prima di andare avanti e di parlare di quello che sta accadendo in questi giorni, vorrei fare un punto rispetto a questo fenomeno. Ho al telefono il professor Marco Rossi. Buongiorno professore. Buongiorno. Che è docente di economia politica e economia pubblica, è coordinatore del laboratorio di analisi sociale e economica del mercato della cannabis all'Università La Sapienza di Roma. Allora, vediamo di circoscrivere il fenomeno prima di arrivare all'attualità, quello che sta accadendo questi giorni, come si muove diciamo una fetta di popolazione, anche sicuramente contando sul fatto che la gente sta più a casa, chi fumava continua ad avere voglia, bisogno, desiderio di fumare e sarà più difficile approvvigionarsi. Esiste una cifra attendibile basata su dati di valutazione scientificamente validati su quanti italiani coltivino cannabis a casa propria? Buongiorno. Buongiorno. Una stima esatta è difficile, però incrociando alcune analisi empiriche svolte da me e dai miei colleghi del laboratorio sulle abitudini di approvvigionamento dei consumatori italiani, incrociando, dicevo, queste indagini, questi questionari, con l'analisi dell'evoluzione del mercato dei grow shop, i negozi dedicati alla vendita di prodotti utilizzabili per la coltivazione della cannabis, quindi incrociando la domanda con l'offerta, è stimabile che in Italia attualmente il numero di growers, così si chiama nello slang, di coltivatori di cannabis domestica, giri intorno ai 100.000 unità. Quindi un numero non trascurabile. Ecco, secondo quella che è la sua esperienza, la letteratura che lei ha avuto modo di studiare, analizzare, il lockdown in qualche maniera favorisce l'idea che in fondo uno, non potendosela procurare altrimenti, deve necessariamente cominciarsela a coltivare? È facile che chi ne faceva abituale uso in questo momento ha un po' tagliati o perlomeno limitati i canali di approvvigionamento, quindi se la coltiva a casa. Questo è un dato che potrebbe avere una sua rilevanza? No, credo che l'ipotesi sia inverosimile per ragioni tecniche. Piantare e coltivare una pianta di cannabis e giù portare a prodotto finito occorrono almeno 2 mesi, se non 3. Quindi nel medio per termine credo che sì. Se ci sarà una crisi economica, una riduzione del reddito nazionale italiano, alcuni consumatori troveranno conveniente smettere di comprarla e rivolgersi alla coltivazione domestica come forma meno costosa di approvvigionamento. Ma nel breve termine non è tecnicamente possibile in 1 o 2 settimane portare a compimento una coltivazione e una manifattura del prodotto. Però, diciamo, come c'è stata un'esplosione di tutta una serie di attività domestiche che prima sembravano impensabili, io immagino, mi metto nel punto di vista di un abituale consumatore, dice di trovare chi me la vende sarà sempre più difficile, e di fronte al fatto che questa questo tipo di situazione possa prolungarsi o perlomeno possa aumentare la difficoltà, io comincio intanto a mettere un seme, poi vediamo, fra 2 o 3 mesi comunque ce l'avrò. È peregrino questo mio ragionamento. No, no, lei sta andando vicino. Infatti, una delle motivazioni è fatto da una persona che non fuma, quindi non so, mi piace però capire, conoscere quale può essere l'evolversi di questo fenomeno. Sono motivazioni per la coltivazione, come indica la letteratura, specialmente australiana, sul tema, e adesso anche italiana, grazie al laboratorio che stiamo portando avanti. Una delle ragioni è la ragione economica, l'ho appena detto, ma una delle principali ragioni è la disponibilità di un flusso continuo, controllabile e costante di cannabis. Il cannabis dipendente è un po' come il tabagista, vive nel terrore di non avere la cannabis a disposizione. La coltivazione domestica, attuata secondo tecniche non rudimentari, consente di avere un flusso continuo, quindi una disponibilità continua di questo prodotto, e quindi viene incontro al problema che lei sollevava riguardo eventuali carenze dell'offerta. Anche se su questo aspetto, carenze dell'offerta, sarei molto cauto, in quanto nel medio-lungo termine, se il reddito nazionale diminuisce, può darsi che numerosi disoccupati si dedichino alla coltivazione della cannabis per fini commerciali, a fini di vendita, non a fini di consumo. Sì, come delle serie di telefilm americani che sono diventati famosi, in cui delle casalinghe a un certo punto per svoltare il menage quotidiano. Come l'erba di Grace, sì, l'erba di Grace. Esattamente, si mettono a spacciare, entrano in contatto con giri loschi, gli si complica molto la vita, perché vabbè, poi non sono rose e fiori. Ora. Ci fermiamo solo un istante, 800 24 00 24, Carlo, provincia di Cuneo. Gli ascoltatori cominciano a portare la loro testimonianza, manterremo comunque l'idea che parliamo di basilico, così nessuno ci potrà dire che in qualche maniera incentiviamo, favoriamo o diamo spago a persone che compiono illeciti. Carlo, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, allora andiamo subito al punto. Sì, a me piace molto il basilico, mi piace molto. Lei consuma basilico da 40 anni, vedo bene. Da 40 anni, sì. Quello che volevo dire è che ovviamente con tutto questo gran casino che è sempre più difficile reperire del buon basilico. Ecco, come avviene l'approvvigionamento? Dal momento che dobbiamo stare tutti chiusi dentro casa, voi potete uscire soltanto per fare la spesa, per andare a lavorare. Chi vende basilico si mette, diciamo, vicino alle file per i supermercati? Come funziona? Per capire, come cambia. Allora, prima diciamo che uno voleva comprare il basilico, faceva un passaggio, due. Ora si tratta di fare parecchi passaggi, no? Quindi cercare persone che come me amano il basilico, e queste persone magari possono viaggiare fuori dal comune. Chiaramente bisogna mettere in moto tutta una macchina, e tutto questo ha fatto sì che il basilico sia perlomeno raddoppiato. Il primo dato, non so se il professor Marco Rossi ne era a conoscenza, lei mi dice che il prezzo del basilico sul mercato è raddoppiato in questo momento. Sì, se vogliamo parlare di basilico buono, sì, altrimenti c'è un basilico carino dell'Albania, che però tutti sappiamo di cosa è composto e per cui uno lo evita, no? Certamente. Poi ci sono i derivati, ci sono anche l'ascis e tutto il resto. È vero, dobbiamo parlare solo di basilico. No, parliamo di basilico, anche perché entro poi in un campo in cui non ho competenza, onestamente. Non è che perché voglio fare la Verginella, ognuno ha le sue uscite dal mondo, le mie non passano per il basilico, che devo dire. Allora, professor Marco Rossi, ecco, rispetto a quello che ha detto il nostro primo ascoltatore, e chiedo ad altri ascoltatori di darmi comunque un'idea di come avviene in questo momento questo tipo di necessità di procurarsi qualcosa di cui si ha anche bisogno a un certo punto. A lei risulta il fatto che sia aumentato molto il prezzo di queste sostanze proprio per la circostanza di difficoltà di reperirle? Sì, 2 punti mi sembrano importanti dell'intervento precedente. Il primo, come lei sta giustamente sottolineando, un aumento del prezzo, il quale rispecchia la legge dell'offerta e della domanda. Vi è stato in questo periodo un leggero incremento le mascherine, della domanda. Le mascherine sono aumentate di 3 volte rispetto al prezzo di mercato, figuriamoci il basilico. Il basilico, diciamo, è consumato un pochino di più adesso, un leggero incremento della domanda, ma soprattutto c'è una contrazione dell'offerta. Il secondo punto interessante che l'intervento precedente ha sollevato è il ruolo del mercato sociale della cannabis, ovvero sia noi si tende a sovrastimare l'importanza degli spacciatori di strada relativamente al totale del volume degli scambi. In Italia circa la metà della cannabis consumata dai consumatori abituali, quotidiani perlomeno, deriva da acquisti presso amici o amici di amici, il cosiddetto mercato sociale della cannabis. È quello che ha detto il nostro ascoltatore, ha detto normalmente esatto. Uno c'aveva l'amico che ci pensava per tutti, adesso è un po' più difficile perché l'amico che ci pensava per tutti forse pensa prima per sé che per gli altri, bisogna ricostruire una rete di approvvigionamento. Esatto. Ma questo non crea anche un problema, lo dico come intuito, poi non so se è giusto, che il problema grosso è che alla fine in testa a questa catena di distribuzione ci sta malavita organizzata, ci stanno organizzazioni criminali e via dicendo. E mentre uno comprava prima il fumo o il basilico dagli amici, c'era una sorta di catena di diluizione del rapporto diretto. Adesso esatto. Ogni fornitore, se la vuole, deve andare dal pusher, che in realtà è un dipendente di un'organizzazione criminale che si occupa di spaccio. Lei sta un po' esagerando i termini, scusi se mi permetto, perché ma è l'ignoranza che mi fa esagerare. Lo spaccio di strada e le organizzazioni criminali non è poi così stringente, tranne alcune aree e territorio nazionale italiano, laddove il controllo delle attività illegali da parte della criminalità organizzata è più pervasivo, riferisco al Mezzogiorno italiano. Una parte consistente dei pusher ha un legame con la criminalità organizzata solo nella misura in cui acquista la materia nel mercato primario, laddove il ruolo della criminalità organizzata è molto importante nelle importazioni di hashish dal Marocco e cannabis dall'Albania, ma questo ruolo della criminalità organizzata nel mercato al dettaglio in generale è meno rilevante. Poi ribadisco, se noi guardiamo al mercato sociale della cannabis, cioè il basilico se vuoi chiamarlo, quasi il cannabis di basilico tra amici minimamente orientati al profitto, beh, in questo ambito il ruolo della criminalità organizzata è trascurabile. Specialmente quindi diciamo la tipologia tipica del produttore sono quei due ragazzi che hanno arrestato a Torino, che avevano una piccola coltivazione e avevano messo su un chilo di roba alla fine. Sì. Beh, forse anche un po' tanto. Diciamo la tipologia tipica del consumatore utilizzatore, che la produce una quantità utile per il proprio consumo e per quello degli amici circostanti, non di più. La produzione su larga scala è una minoritaria rispetto al totale dei coltivatori. Vediamo un'altra testimonianza. Matteo da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Lei è un ex coltivatore diretto e privato di basilico, diciamo. Sì, praticamente l'ho fatto. Allora aspetta Matteo, no, lascio un po' di suspense, nel senso devo dare la linea alla borsa, resti solo un secondo in linea, passate le notizie della borsa, sentiamo come un ex coltivatore di basilico porta la sua esperienza, tra un istante. Iniziamo a coltivare cannabis, non solo io, ci sono decine di persone in Italia che inizieranno oggi la propria coltivazione e lo stiamo facendo con l'iniziativa iocoltivo.eu. Allora, innanzitutto tre vasetti perché abbiamo tre semini. Iocoltivo.eu chiede di usare un solo seme, coltivare una sola pianta ed è quello che faremo, però inizialmente per vedere se ci viene fuori qualcosa o no usiamo tre vasi. 800240024, quello che state sentendo è il canale YouTube di Matteo Mainardi, che ha aderito a un'iniziativa di cui si è parlato nei giorni passati, Io Coltivo, che appunto suggerisce di mettere un seme di una pianta proprio per sensibilizzare il legislatore a tenere conto del fatto che andrebbe legalizzata anche l'uso e il consumo delle cosiddette droghe leggere. Parleremo di questa iniziativa tra un po', abbiamo una persona che è coordinatrice di questa iniziativa, però intanto voglio sentire Matteo da Pescara. Matteo, ci eravamo interrotti con lei, che in passato ha coltivato, diciamo, in maniera sia diretta che privata il basilico, ci porti la sua esperienza. Sì, guardi, l'ho fatto all'incirca per 12-13 anni praticamente, fin quando non è arrivata la famiglia, quindi mi sono dovuto fermare. Ma volevo fare un po' il punto economico della situazione. L'ascolto. Allora, praticamente con una spesa iniziale di 300 euro fatta all'incirca una decina d'anni fa, io ho risparmiato in tutti questi anni all'incirca dai 5-6 mila euro, soldi che non so assolutamente dove andavano a finire. Quindi Vabbè, è come qualità, chi si fa la salsa di pomodoro e la marmellata a casa, esatto, chiaro, si risparmia. Esattissimo. Oltre alla qualità superiore, perché ovviamente scegliamo sempre se migliori, la genetica migliore, insomma, come posso dirle, c'è stato un risparmio sia a livello economico che a livello qualitativo. E questo risparmio sì, è stato però più era, meno... era un'attività, diciamo, illegale, lei rischiava moltissimo, questo lo sapeva. Assolutamente, ma in un piccolo box, non so se si può dire, ormai mi sono aperto, come si può dire. In un piccolo box 60x60 avevo 60 centimetri per 60 centimetri, non parliamo di metri quadri. Quindi, diciamo poco più che un vaso dove si coltivano i gerani. Esatto. Alla fine ho sempre sostenuto, cioè mi sono sempre autosostenuto, quindi tutti per soldi il suo bisogno personale, sì. Quindi ecco, secondo lei dalla sua esperienza €5,000. Dalla sua esperienza, però, io sto vedendo adesso in questo momento, mi hanno segnalato un articolo di Next, quotidiano online, che parla di quello che comunque è l'evoluzione comunque del fenomeno dello spaccio. Ci sono stati parecchi arresti, parecchie persone fermate. È logico che nelle condizioni di maggior controllo, in cui tutte le persone vengono fermate quando girano per strada in atteggiamento non direttamente mirato all'acquisto in un supermercato o di generi di prima necessità, vengono fermate. Ecco, secondo lei in questo momento come si sta articolando il sistema della produzione, della vendita e del consumo? Dalla sua esperienza, un'intuizione. Ma guardi, io parlo per mia esperienza personale. Alla fine l'importante, cioè il trucco è non far uscire mai di casa. Cioè tenersela per sé, alla fine sai che torni a casa e c'hai quella situazione solo per te ed esclusivamente per te e per i tuoi amici più stretti. Ma nessuno mi ha venduto niente, cioè non ho mai regalato niente a nessuno, era solo mia praticamente. Quindi sono uscito fuori dal mondo delle mafie, diciamo così, per un mio sfizio personale. E poi, diciamo, leggo sempre nello stesso articolo, la categoria di chi fuma abitualmente questo tipo di sostanza è una categoria molto fragile. In questo momento si trova improvvisamente nella carenza di questo consumo e probabilmente potrebbe anche avere dei problemi. Antonella Soldo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Antonella Soldo è portavoce di Meglio Legale, coordinatrice dell'iniziativa Io Coltivo, che è una campagna di disobbedienza civile dedicata alla coltivazione indoor, dentro casa, della cannabis per uso ricreativo e terapeutico. Questa campagna è mossa da Meglio Legale, Dolce Vita, Associazione Luca Coscioni, Radicali Italiani. Insomma, avete colto questo momento di forzata reclusione per rilanciare un problema? Esattamente cosa volevate dimostrare e cosa volevate ottenere? E come si è svolta questa campagna, per capire? Cosa vogliamo ottenere ancora? E intanto grazie per l'invito e per questa opportunità di parlare di questa campagna che... è una campagna di disobbedienza civile, quindi uno strumento di lotta politica che vuole chiedere al legislatore di decriminalizzare la coltivazione per uso personale. Questo che cosa vuol dire? Noi vogliamo che non sia considerato reato, come lo è tuttora, il fatto di potersi coltivare in casa la cannabis e non rivolgersi al mercato nero e non dare soldi alle mafie. E quello che noi facciamo è una disobbedienza civile, ma in qualche modo noi la consideriamo una sorta di affermazione civile e abbiamo dalla nostra parte anche importanti pronunciamenti delle istituzioni. Solo pochi giorni fa sono state pubblicate infatti delle motivazioni delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che sono l'istituzione più importante in materia penale nel nostro paese, come sappiamo, che ribadivano come la coltivazione per uso personale non sia da considerare reato, ma solo un illecito amministrativo al pari del possesso. Infatti qual è il punto? Nel nostro paese consumare sostanze stupefacenti non è un reato, è considerato un illecito amministrativo. Quindi si paga una multa, se uno viene trovato con una sostanza... c'è il ritiro della patente o insomma delle sanzioni che poi diventano attive dopo una serie di verifiche. Comunque invece, è un illecito ma che non determina l'arresto, non è un reato. L'arresto, esattamente. Mentre coltivare in casa cannabis è un reato per il quale si rischiano fino a 6 anni di carcere. Quindi è un paradosso, se ci pensate. È come se lo Stato dicesse: puoi consumare cannabis, l'importante è che vai dal mercato nero. È come se lo Stato assicurasse il monopolio alla criminalità organizzata. E questo, obiettivamente, Antonella, senza necessariamente dover esprimere posizioni proibizioniste o antiproibizioniste, è paradossale, perché o è reato tutto, e allora 6 anni anche a chi la consuma, o tutto viene considerato un illecito, se io la consumo è meglio che me la coltivo nel lavandino del cucinino, piuttosto che vado in giro a chiedere a uno spacciatore di darmela, alimentando anche perché il mercato. Esattamente, lei all'inizio ha usato una parola che è la parola chiave per approcciarsi a questo tema, che è quella di un fenomeno sociale. Ed è un fenomeno sociale che nel nostro paese riguarda 6 milioni di persone almeno. E le persone che autocoltivano in casa ad oggi si stima che siano almeno 100.000. Quindi è un fenomeno già detto il professore della Sapienza. Esattamente, il professor Rossi. Sì. Quindi è un fenomeno molto ampio, cioè nella storia dell'umanità l'uso di sostanze è una costante dai tempi degli assiro-babilonesi ed è una cosa che mai nessuna politica proibizionista è riuscita a estirpare, perciò è un tema che va regolamentato e noi con questa campagna stiamo cercando di mettere insieme associazioni, e sono già un'ampia rete, circa una ventina. C'è anche ma che esito ha avuto questa campagna? Cioè, nell'emergenza generale in cui ogni giorno si contano centinaia di morti, chi è che si è preso poi la briga di andare a prendere casa per casa chi metteva il semino dentro il vaso per fare disobbedienza civile? Perché comunque sia, a tuttora è un reato a tutti gli effetti. Sì, questa campagna è stata lanciata il 20 aprile e sta raccogliendo in questi giorni ancora le adesioni di associazioni e persone. Le dico che le prime reazioni sono state migliaia di mail e 500 foto già pubblicate sui social, perché noi chiediamo a chi partecipa di piantare un semino e mettere una foto con l'hashtag #iocoltivo sui social. Tutte le informazioni sono sul sito iocoltivo.it. Ma non è un'autodichiarazione di compiere un reato? Esattamente, è anche un'autodenuncia in questo modo, è anche un'autodenuncia, perché ovviamente come lei sa la disobbedienza civile è un atto di violazione precisa e intenzionale di una legge al fine di chiedere un cambiamento di quella legge, quindi c'è un'autodenuncia. Noi provvediamo all'assistenza legale per chi dovesse incorrere poi in dei problemi legali, perché ovviamente chi partecipa è ben consapevole che sta violando una legge, sta quindi esponendo se stesso a dei rischi, ma stanno partecipando per esempio anche dei parlamentari, Riccardo Maggi e Matteo Mantero. Potranno tutti bravi avvalersi i seminatori col seme degli altri. Chiaro. Chiamiamoci un secondo, aspetta un attimo. Abbiamo un'altra testimonianza di ascoltatori che chiamano all'800240024. Mi interessa veramente capire l'entità e lo spessore del fenomeno sociale. Gabriella da Aquila, buongiorno. Salve, io ho ascoltato casualmente la vostra trasmissione questa mattina e mi trovo perfettamente d'accordo con tutta la linea sia di questa iniziativa che della disobbedienza civile che veniamo invitati a fare. Abbiamo già avuto qualche esperienza. Quando ci abbiamo, chi dice? In famiglia? Siete una famiglia? Cosa siete? Una siamo coppia? Una coppia. Sì, siamo una coppia di pensionati. Di allegri pensionati. E quindi indipendentemente da questa cosa che ho ascoltato oggi, proprio per evitare per il rifiuto che abbiamo di dover ricorrere a canali legati in qualche modo alla criminalità che sta a monte di alcune di questi commerci, lo sappiamo, e così abbiamo anche un po' per divertimento iniziato a sperimentare delle coltivazioni indoor di basilico sì, a casa vostra. Di basilico, sì. Due, tre. E viene bene quello fatto in casa. Non è facilissimo, però diciamo, insomma, piano piano stiamo imparando, sì, perché comunque è abbastanza, insomma, prevede di avere delle competenze nel settore delle coltivazioni, però insomma, piano piano ci stiamo affinando. In questo momento tutto abbiamo fuorché la possibilità non abbiamo, ci manca tutto meno che il tempo. Ci sono giornate intere, uno può vedere, cercare i manuali. Però ecco, la crescita è lenta. No, ma noi lo facciamo già da 2-3 anni, quindi stiamo piano piano sperimentando. Secondo voi, in questo momento particolare, cambierà moltissimo delle nostre abitudini, della gestione delle nostre relazioni, il computo e la misurazione della qualità delle nostre relazioni cambierà radicalmente. Ho sentito questa mattina un professore che sta facendo uno studio su questo, lo sentiremo lunedì. Cambierà totalmente la relazione. Le relazioni basate sulla consuetudine finiranno, quelle provate dalla lontananza si consolideranno. Ecco, il consumo del basilico, la coltivazione del basilico, come cambierà dopo questo periodo, secondo lei? Ma io credo che le persone che già sono, come dire, appassionate di questa spezia così molto profumata continueranno a ricercarla, perché comunque è come per molti il tabacco, insomma, è una forma di intrattenimento e di relax che appunto esiste da, come diceva la signora prima. Vabbè, quello sono le ragioni individuali, ognuno fa quello che vuole, questo è chiaro. Sì, certo, e quindi penso che che chi ne faceva uso prima sicuramente continuerà a farlo, forse con un piccolo incremento, perché l'ansia che ovviamente dover stare per forza in casa sta generando in molti. Secondo lei, Gabriella, i canali tradizionali di approvvigionamento individuale che avevano dei liberi cittadini in questo momento è stata interrotta, cambiata lo spazio è sempre uguale, quindi non cambia niente? Da molti amici e conoscenti, familiari che sento, ci sono delle oggettive difficoltà e quindi probabilmente molte persone che magari prima non osavano forse stanno cominciando a pensare, anche appunto per il tempo a disposizione, forse stanno cominciando a pensare di provare, sia per dare un supporto alla campagna di legalizzazione, perché questa cosa, diciamo, in forme diverse in tanti paesi d'Europa e nel mondo già hanno trovato forme e modelli possibili per far accedere le persone a questo uso del basilico. Quindi sia per incrementare questo, sia anche perché intanto per risolvere il problema organizzativo, il problema tecnico dell'approvvigionamento, come dice lei. Ci fermiamo un attimo con Gabriella, continuiamo dopo con i nostri ospiti, che la domanda che farò sia al professor Rossi che Antonella Soldo è capire se quel tipo di timore che viene espresso da tutto il fronte delle persone che sono assolutamente contrarie alla legalizzazione delle cosiddette droghe leggere, che siano la porta aperta verso sostanze più invasive e più deleterie. Ecco, in questo momento però si spezzerebbe, perché chi coltiva il basilico continuerà a fumare basilico e non ci sarà mai lo spacciatore che dirà: oggi ho finito il basilico e ti passo la maggiorana perché vedrai che è molto meglio. Se funziona così, poi me lo diranno i miei ospiti, ma tra un istante. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Melog 800240024. Oggi rispondiamo a una domanda che mi ero fatto, memore di trasmissioni fatte con i nostri ascoltatori, in cui ho scoperto che una vasta quanto insospettabile frangia di pubblico usava a coltivarsi a casa tutte le sostanze che contribuivano alla sua serenità, al suo piacere, alla sua voglia comunque di fumarsi quello che gli pare. E immaginando che in tempo di coronavirus questo possa essere un'attività che riempie le giornate, mi sono fatto qualche domanda. Mi sono accorto che In realtà c'è una campagna di disobbedienza civile in atto dal 20 aprile iocoltivo.eu che dice appunto di mettere un seme nella pianta per incentivare l'attenzione del legislatore, forti anche di alcune recenti sentenze della Suprema Corte, sul fatto che se in Italia si può fumare è soltanto un illecito amministrativo, ma se coltivi diventa un reato e rischi 6 anni, o uno o l'altro, cioè o è tutto un reato e allora non si può far nulla, o come penso si auspichino queste persone, coltivare per uso personale deve essere associato e equiparato al fatto di fumare per uso personale. Franco da Roma, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Senta, io vediamo quale aspetto del problema può aiutarci a capire meglio in questo quello momento. Quello dell'attenzione rispetto a chi non prende la cannabis o roba del genere. E poi mi faccio una domanda, questo signore che ha detto che la coltiva a uso personale e la dà solo agli amici, ma la distribuisce gratis, non lo so, è una curiosità. Non c'è più, non lo so, non so fino a che punto arrivi il rapporto amicale. Se... ma una domanda se la può fare pure, la risposta se la può dare pure. Ma uno se la fa in tutti, uno la può dare gratis, la può dare a pagamento, dipende dal tipo di amici, dipende dalla sua attività, non lo so. Non... Allora però se legalizziamo questa storia, se la legalizziamo... Questo uso di queste sostanze può alterare l'attenzione delle persone, per esempio quando stanno a guidare le macchine, non lo so. Ma se vengono beccati in stato di, diciamo, di uso di sostanze, vengono sanzionati in maniera fortissima. Però io parlavo dal punto di vista legale, no? Visto che questi spingono tanto, no? Ma queste sostanze poi creano una disattenzione, creano un indebolimento dell'attenzione della persona. Ma nel momento che non l'usa penso sì. Anche io se mi faccio un margarita non posso andare a guidare, chiaro. In quel momento sono abbastanza. Non stiamo parlando di niente, insomma. È una cosa assurda parlarne, cioè legalizzare una cosa del genere. Cioè, dopo con chi ce la prendiamo? Quando comincia a succedere? Vediamo che per ipotesi legalizza. Quando succede per l'incidente ma legalizzano cosa? Scusi, il consumo è già possibile, uno può farsi una canna, è un reato amministrativo. Clandestino? No, forza, uno se la può fare, è un reato amministrativo, ci sono delle sanzioni così, ma non è che viene arrestato. Abbiamo imboccato un vicolo cieco, Gianluca. Lei chiaramente è un proibizionista, ma rispetto al suo punto di vista, non importa nulla. Non è una questione di protezionismo, è una questione sì, di. Però scusi, Franco, non è che la voglio. Il tema è come spostato... come l'uso delle armi, poi bisogna dire ma le armi per la difesa, sì, ma anche possono servire anche per posso dire una cosa, Franco, non è fuori tema in questo momento. Io ho nel freezer pieno di tequila e mezcal. È chiaro che è come un'arma, se mi bevo una bottiglia non sono più in grado di gestire i miei riflessi, la mia attenzione, ma me ne guardo bene, mi faccio un margarita ogni tanto, non è proibito, ci sono stati momenti in cui è proibito anche l'uso dell'alcol. La stessa cosa penso che valga per il fumo, non è perché il fumo, però questo è un punto di vista il suo rispettabile. Stiamo parlando di un altro problema, chi già fuma? E nessuno gli può impedire di fumare, può coltivare o non può coltivare. In questo momento che si sta tutti chiusi dentro casa, chi fuma ha maggiore difficoltà a trovare il fumo e quindi se lo coltiva, e quindi tanto vale, qualcuno dice, che a questo punto coltivarlo sia equiparato al consumarlo, cioè un semplice illecito amministrativo. Lorenzo da Bologna. Sì, buongiorno, salve. Sì. Io in passato mi ero interessato alla coltivazione del basilico perché per questioni di salute, insomma, vedevo che quello che c'era in giro era pieno di sostanze nocive, luci dello scarpe, paraffina. Poi comunque andando in Olanda vidi una società 20 anni avanti a noi e vidi come trattavano questa problematica, se vogliamo chiamarla problematica. In realtà loro, tenendo alla salute del cittadino, gli danno un prodotto normato, visto dall'igiene pubblica, insomma, è infatti un prodotto di altissima qualità. Non è come quello coltivato dai militari a Firenze, mi sembra, dall'esercito, quello penso che le alluda, no? No, ma io parlo del prodotto olandese, capito? Ah, in Olanda, no, perché in Italia pure, per uso terapeutico e clinico, sì, lo Stato produce questa sostanza e la distribuisce secondo le necessità cliniche anche delle persone. Sì, ma è un altro problema, non voglio, entrare oggi nella discussione, ma non perché non sia importante, perché è fuori tema. su se sia giusto o non sia giusto, faccia bene, faccia male. Sto semplicemente parlando di chi già la usa e che se la coltiva, solo questo. È questo il margine del problema. Professor Marco Rossi, ci eravamo lasciati un po' di tempo fa, ma riprendo con lei il filo. Insegna, ricordo, economia politica, economia pubblica, e coordina un laboratorio di analisi sociale e economica sul mercato della cannabis alla Sapienza di Roma, quindi nell'ambito di un'istituzione universitaria. Fa parte della mia inesperienza nel campo dire che comunque sia si eviterebbe comunque con la coltivazione in casa il passaggio ulteriore nella catena delle dipendenze che molti, come il signore che penso che ha chiamato poco fa, paventano, immaginano come un'escalation quasi fatale. Sì, infatti ricordo l'esperienza olandese, la politica di tolleranza avviata ormai 50 anni fa in Olanda era mirata appunto alla separazione dei mercati, risultato conseguito anche a detta dei detrattori di questa politica. Separando i mercati, separando le forniture, si riesce a ridurre il problema dell'induzione al consumo di sostanze stupefacenti più pericolose. Quindi concordo con la sua opinione. Vorrei però far notare, riguardo all'intervento del signore Romano, come in fondo la problematica è legata anche al simbolismo, una sorta di aspetto religioso per cui assume un valore simbolico, un valore totemico il consumo di cannabis o, se volete, diventa un tabù. Quindi per cui il discorso razionale, oggettivo, è incompleto, manca di una parte, della parte simbolica appunto. Sì, perché il signore era molto animoso e molto preoccupato per le, diciamo, le ricadute sulla sicurezza pubblica di chi fuma la canna, ma non era assolutamente preoccupato del fatto che uno poteva anche mettersi alla guida in stato di ebbrezza avendo consumato alcol. Comunque sono comportamenti super sanzionati, anzi nelle leggi recenti sull'omicidio stradale è ancora di più grave mettersi alla guida dopo aver fumato o cose del genere. Sandro, provincia di Cremona. Sì, pronto? Sì, l'ascolto. Sì, buongiorno. Io vorrei rivolgermi soprattutto a chi è contro la legalizzazione o comunque al discorso che si fa oggi di... Sì, però oggi parliamo della coltivazione, sennò allargando il tema non arriviamo a nessuna informazione. No, riguardo alla coltivazione indoor, sì. Diciamo. E dico questo, che molte volte, come il signore di prima, che diceva è facile poi perdere il controllo, è facile passare delle sostanze più... Proprio con la coltivazione in proprio, uno eviterebbe, oltre che finanziare, come diceva lei, associazioni criminali, evita anche di averci a che fare, perché molte volte, io che sono stato e adesso non sono più consumatore perché non riesco più a reperirla, prima era molto facile che chi non aveva mai avuto a che fare con altri tipi di sostanze, proprio lì quando vai ad acquistarla ti viene proposta magari dall'amico, dalla persona che te l'ha sempre data. Questo l'abbiamo detto proprio all'inizio della trasmissione, ma abbiamo potuto per quanto possibile dare un'idea di quello che è il fenomeno, non volevo dare soluzioni risolutive. Ringrazio da Milano Andrea Roccabella e Laura Vanossi, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, da casa sua. Alla prossima.